la voce, eccolo. No, il basso niente. Misericordioso. Arricchia. Se vuoi parlare. Stamma sì. Senti dal basso, mia zona ha sempre suonato. I bambini, apriamo noi la parte vietata minori ai 18 anni, quindi avvicinatevi per favore. Non potevamo non iniziare questa canzone che rappresenta il nostro paese e il paese della metà di quelli che hanno organizzato queste male, ragazzi, qua purtroppo non potevo manco parlare del paese nostro perché stiamo al paese nostro. Più che altro tutti sanno tutto. Mo c'è un sindaco 5 stelle, quindi facile che arriva con la polizia. Mai sì. Ma poi niente. No, in cima a questo fiore, da mari splendidi dominando da piano, il volato a tormentano. Io sono nato, il te sono cresciuto, la tua aria mi è rosa. Sono Africa. Dai, no. Ci farebbe piacere. Questo si chiama Niente. Braccia mai pesanti te, porterai sempre con te la nostalgia di non vedere un mondo che non c'è. Hai sempre lavorato, non hai mai chiesto niente e non hai mai creduto in Thank you. Radici. Sei contento? Sono contentissimo! Dai che noi siamo contenti se sei contento! Allora raga, questa maledetta provincia è oggi più che mai è dedicata a Radio Vaticana che sta qui a regalarci leucemie e tumori a tutti quelli che in questa zona hanno sofferto le pene dell'inferno per dai allora, tanto lo sapevo, vai! Cazzo, che cazzo di roba, un altro ragazzo carburate. Non mi vuoi parlare, non mi vuoi cantare. d'accordo, raga. Questa è per... a storia di uno che usciva, vanno a signorine, li trovava. Per i ragazzi di... della Troubleaders Crew, Palmiro, Patato, Carpo, Riz, Pietro, fratelli nostri, ma ormai non vi riesco a sottolineare perché Claudia, Silvia, lo sanno tutti, l'altra Silvia, insomma sono tanti, mo può essere pure il Minnesota, Berna, insomma un po' tutti, senza di loro qui non Maurizio. C'erano ancora le vacche, quindi è per loro, pirata. Tirata ogni volta le richiamo a chi... Vai. Questa è un po' riassunto. Storia la vita mia, raga. Dai da tua, dai da mia. Dai. Mi sono rotto. Dice no, ma mi rotto il cazzo pure lui. Mi sono rotto il cazzo. Thank you. Chiudiamo ragazzi e lasciando spazio ai DP 666, Giancane. Ragazzi, siete lì che non dà luogo il suo microfono con tutta la cipolla che sto siamo mangiati a scena, raga. Nina, questa è dedicata a te che c'è un cuore di pietra come noi. Aia Nina! Cuore di pietra! Fatta più concerti che io!